24 mattino. Le 8 e 17 minuti, 349 238 6666 per i vostri messaggi. È il momento dell'economia. Soldi e dintorni. E ritrovo Deborah Rosciani, eccoci qua Deborah. Felicemente. Buongiorno. Mi auguro. Molto molto felicemente, come tutte le mattine, tranne il sabato e la domenica. Allora, oggi parliamo di titoli di Stato. Esatto, non ho preparato nessun siparietto per metterti in difficoltà, però non so se sei un appartenente alla carovana dei vecchi bot people. No, hai detto che non avevi siparietti. E adesso così mi è venuto in mente seduta stante. Poi dico vecchi perché a quanto pare, come dire, i risparmiatori italiani si stanno un po' disaffezionando ai bot, ai BTP e quindi proprio ai tradizionali strumenti di investimento a cui erano tanto affezionati negli anni passati. Cosa sta succedendo? Il dato di cronaca lo avete sicuramente notato questa mattina su tutti i giornali. C'è stata ieri una nuova asta di titoli di Stato. Sul mercato sono stati collocati bot a 6 mesi, adesso diremo anche l'importo, ma quello che ci interessa è il rendimento con cui sono stati collocati, perché il rendimento è stato il minimo storico assoluto, all'ordo l'1,23%. I rendimenti non erano mai arrivati così tanto in basso, basti pensare che per la scadenza a 6 mesi, appena 3 mesi fa, erano al 2,5%. Quelli a 3 mesi addirittura sono finiti intorno all'1,2% lordo, quindi rendimenti in picchiata per i titoli di Stato. Cosa vuol dire tutto questo? Cosa succederà nei prossimi mesi? Questa mattina è il tema sul quale ci interroghiamo, soldi e dintorni, insieme ad Angelo Drusiani, responsabile delle gestioni di banca Albertini Seeds. Drusiani, benvenuti a Soldi e Dintorni. Grazie, buongiorno a voi tutti. E abbiamo letteralmente tirato giù dal letto questa mattina Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario per la borsa italiana a Londra. Poletto, buongiorno e grazie, doppiamente grazie. Buongiorno a voi. Ovviamente borsa italiana perché Poletto a Londra, perché la borsa italiana, come sapete, si è aggregata alla borsa inglese, al London Stock Exchange, per cui Poletto ogni tanto si fa questi viaggi anche per monitorare da Londra la situazione. Comincio con Drusiani con un commento relativamente all'andamento di mercato. Allora, può spiegare, ci aiuta a spiegare a tutti gli ascoltatori che non hanno dimestichezza anche con questo che è il tradizionale strumento finanziario, quello a cui appunto gli italiani sono più largamente affezionati, perché i rendimenti sono così in picchiata, Drusiani? C'è una ragione molto semplice, della sicurezza. In questa fase, dopo un anno come il 2008 in cui delle perdite hanno gravato purtroppo sui portafogli di moltissime persone, di moltissimi investitori, la scelta è quella di comprare titoli che offrono assoluta sicurezza, sia dal punto di vista del debitore, quindi il debitore pubblico è considerato in questo momento quello più affidabile in assoluto, sia dal punto di vista dei rendimenti, anche se i rendimenti sono bassi, anche se vanno al di sotto del tasso di inflazione, comunque sono rendimenti di segno positivo in una fase in cui purtroppo i segni negativi sono moltiplicati in maniera smisurata. Poletto, vengo subito a lei. Ci può aiutare a capire in che circostanze uno Stato, un governo decide di organizzare un'asta per mettere titoli di Stato sul mercato? Ci sono degli appuntamenti ricorrenti nel corso dell'anno? Poi ovviamente parleremo anche delle circostanze straordinarie che l'economia sta vivendo. Oppure, non lo so, il governo decide o lo Stato decide a seconda delle necessità? Ma diciamo intanto che il governo italiano è uno dei principali debitori al mondo, per cui hanno necessità di, diciamo, su base continuativa di affacciarsi sul mercato e di emettere titoli per rifinanziare il debito pubblico. Detto questo, ci sono appuntamenti, come dicevo, periodici, in particolare per le aste bot, che avvengono su base in prossimità delle scadenze di titoli che vanno a scadere a 3, 6, 12 mesi. In più ci sono emissioni che vanno a rifinanziare il debito cosiddetto di medio e lungo termine, per quanto riguarda titoli a tasso variabile come i CCT piuttosto che i BTP, che possono essere di durata a 3, 5, 10 e 30 anni. Evidentemente il governo ha interesse a monitorare anche la situazione dei tassi di interesse che ci sono sul mercato internazionale, proprio per cercare anche di ridurre il costo del finanziamento dello stock del debito che deve finanziare normalmente. Drusiani, leggevo questa mattina un pezzo del collega delle Sole 24 Ore, Moria Longo, che i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono un po' più alti dei pari scadenze francesi e tedeschi. Questo è dovuto a quel famoso fenomeno che si sta creando da diversi mesi a questa parte dell'allargamento dello spread, poi lo spieghiamo anche in termini semplici, fra il titolo di Stato decennale italiano e quello tedesco, cioè il mercato italiano, il tesoro italiano, per collocare più facilmente i suoi titoli di debito pubblico deve riconoscere un rendimento più alto? Sì, in sostanza è così. In effetti si è assistito, secondo me, a una grossissima speculazione nei confronti dei titoli di Stato italiani in senso negativo, perché si è costretto il tesoro italiano a pagare dei rendimenti più elevati in una situazione molto strana, perché se pensiamo bene la banca centrale, il Ministero del Tesoro tedesco ha dovuto salvare 5 banche, in Italia questo non è successo. I ministeri del tesoro americani sono intervenuti con cifre spaventose per salvare le loro banche, da noi questo non è successo, però cosa avviene? Avviene che i titoli di Stato italiano, siccome il debito pubblico è molto elevato, sono costretti a pagare rendimenti superiori, così come capita per la Grecia, per la Spagna, per il Portogallo, ma anche per la stessa Francia nei confronti del tesoro tedesco e della stessa Spagna. Significa che comprando titoli di Stato italiano l'investitore ottiene rendimenti più elevati. Ripeto, secondo me è una sorta di bolla nei confronti del titolo tedesco, però in questa fase i mercati vogliono così, bisogna adeguarsi. Infatti, questa tra l'altro è probabilmente anche la tendenza con la quale avremo a che fare per tutto l'anno. Un 2009 che abbiamo già avuto modo di spiegare più spesso sarà caratterizzato da un mercato letteralmente inondato da obbligazioni governative da parte di tutte le principali economie, perché, come abbiamo già avuto modo di spiegare, tutte le principali economie devono finanziare gli enormi piani di sostegno alla crisi affronto proprio della crisi che stanno predisponendo in questo momento. Per cui Poletto magari ci può dare la sua visione rispetto a questo problema, cosa potrà succedere per quello che riguarda l'Italia? Sarà un anno caratterizzato da aste anche straordinarie e saranno numerose secondo lei? Ma questo è ancora prematuro da valutare, sicuramente è un'opzione che sicuramente il Tesoro valuterà. È evidente che, come diceva Drusiani, in questa fase stiamo vivendo una situazione tipica del cosiddetto flight to quality, la gente vuole asset... Volare verso la qualità, proprio letteralmente. Volare verso la qualità, o presunta tale, quantomeno asset privi di rischio, dove i titoli di Stato governativi vengono considerati titoli privi di rischio nei confronti di investimenti azionari e quant'altro, per cui ritengo che questa situazione rimarrà almeno per i prossimi 8-10 mesi. Tra l'altro c'è da segnalare un'altra cosa che è successa ieri, ritorna Drusiani con questa domanda: in realtà l'asta di ieri di BOT a 6 mesi e di CTZ sono state aste molto frequentate non da piccoli investitori, che in realtà stanno riducendo la propria domanda di piccoli risparmiatori, ma da investitori istituzionali, cioè le banche, per esigenze di tesoreria. Che cosa vuol dire? Significa che le banche hanno interesse ad investire in titoli che abbiano nella breve durata dei rendimenti che sono leggermente superiori a quelli che offrono i titoli di altre nazioni, ad esempio i titoli tedeschi o i titoli francesi. E quindi questo fa sì che le banche che fissano delle scadenze, ad esempio fra 3 mesi magari dovranno rimborsare dei mutui o dei prestiti, o comunque devono pagare delle scadenze che hanno già programmate, o fra 6 mesi potrebbe accadere la stessa situazione, quindi comprando dei bot faranno in maniera che la data di scadenza, la data di rimborso dei bot stessi coincida con le date in cui le tesorerie hanno dei pagamenti da effettuare. Quindi il bot è uno strumento estremamente elastico, che fra l'altro può essere venduto sul mercato anche prima laddove se ne presentasse la necessità, con estrema facilità, e consente alle banche di far sì che le entrate e le uscite di tesoreria possano collimare, quindi coincidere nei giorni in cui ne hanno bisogno. Pietro Poletto, dove e come si possono sottoscrivere le obbligazioni governative, a patto che adesso ne abbiamo voglia, dati i rendimenti? Intanto si possono sottoscrivere in asta, al mercato primario, in prossimità del collocamento da parte del Tesoro. Uno può prenotarle presso gli intermediari autorizzati, intermediari bancari, per cui ci sono le comunicazioni anche sui media relativamente alle date di emissione, per cui uno può prenotarli in asta. In alternativa può comprarli sul mercato secondario, perché poi d'ufficio tutti i titoli di Stato del governo italiano sono automaticamente quotati sul mercato secondario di borsa italiana, e può comprare sul mercato secondario dopo l'emissione, ovviamente ha la possibilità anche di verificare e confrontare i prezzi che si vengono a creare sul mercato secondario tra prodotti di diverse scadenze, può così definire, scegliere in maniera ampiamente trasparente quale può essere lo strumento prodotto che più si addice alla alle proprie esigenze. 10 secondi ad Angelo Drusiani. A marzo la Banca Centrale Europea opera un nuovo taglio probabilmente dei tassi di interesse. Questo significa che i rendimenti dei titoli di Stato scenderanno ancora? Non tanto perché farà il taglio di marzo, quanto perché ci si aspetta dei tagli ulteriori da qui a fine a giugno, quindi se a marzo andremo all'1,5 come tasso di riferimento, a giugno potremmo essere all'1%, quindi aspettiamoci i rendimenti dei titoli brevi ancora in casa. Sempre più rosicati. Grazie a Pietro Poletto e ad Angelo Drusiani per essere stati con noi. Alessandro. Eccoci, no, tocca ancora a te. Ah, si tocca ancora a me, a Salva Danaio. Oggi parlo della consulenza dei consulenti finanziari indipendenti. Chi saranno lo scopriremo più tardi. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le ultime notizie: in Italia tornerà il nucleare. Nel vertice italo-francese di ieri a Roma è stato firmato un accordo che impegna Enel e EDF alla costruzione di 4 centrali nucleari in Italia. La prima sarà operativa nel 2020. Ci riprenderemo, gli Stati Uniti torneranno più forti di prima, lo ha detto il presidente americano Obama nel suo primo discorso al Congresso. Prima di Obama ha parlato il presidente della Federal Reserve Bernanke, per una ripresa totale ha detto ci vorranno 2-3 anni. La cronaca in Italia: duplice omicidio nel Trevigiano. Una donna di 36 anni, la figlia di appena 2, sono state uccise nella loro abitazione a Castagnole di Paese ieri sera. Gli investigatori stanno cercando l'ex convivente della donna, padre della bimba, un cittadino straniero che risulta irregolare, ma a suo carico al momento non ci sarebbero elementi per coinvolgerlo. Infine il calcio: un pareggio e una sconfitta nelle prime due sfide di Champions League che vedono poste squadre italiane e inglesi. L'Inter ha pareggiato 0-0 a San Siro contro il Manchester United, mentre la Roma ha perso 1-0 a Londra con l'Arsenal, con un calcio di rigore di Van Persie. Stasera tocca la Juventus, sempre a Londra, contro il Chelsea. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio al discorso di Obama al Congresso. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Abbiamo superato crisi peggiori. Nel suo primo discorso al Congresso, Obama è apparso convincente e determinato ad affrontare la crisi economica. 7 americani su 10 hanno fiducia in lui. Obama è sicuro che il piano di stimoli da 787 miliardi avrà effetti e che nel 2010 si potrà vedere una ripresa. Lo dice anche il presidente della Federal Reserve, Bernanke. A patto però aggiunge che la finanza sia risanata. Il punto è proprio questo. L'attenzione è tutta sulle banche, ma ieri le preoccupazioni hanno riguardato anche la più grande compagnia di assicurazione al mondo, AIG, quella che appariva, tanto per intenderci, sulle maglie del Manchester ieri sera a San Siro, che è stata ripetutamente salvata e che ha bisogno di altri 150 miliardi di dollari. AIG prevede di perdere in un solo trimestre, pensate, 60 miliardi di dollari. Da sola si è mangiata una cifra a carico del contribuente americano non distante dall'intero pacchetto Obama per l'economia. Un grande assicuratore incapace di valutare non solo i rischi dei clienti, ma soprattutto i propri. Buona giornata. Grazie, buona giornata Ferruccio De Bortoli. Ci ritroveremo domattina alla stessa ora, alle 8:35 minuti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Se oggi prendete il giornale, leggiamo questo titolo all'interno: lotta ai clandestini, ecco dove si faranno i centri di espulsione. Sapete che il governo venerdì scorso nel decreto sul decreto sicurezza, ha previsto anche che gli immigrati irregolari possano rimanere temporaneamente nei centri di identificazione ed espulsione, gli ex CPT, non più 60 giorni ma fino a 6 mesi, il che vuol dire che ci vogliono più posti, ci vogliono più centri, bisogna costruirli. Il progetto del governo è quello di costruirne da 10, quale sono adesso, almeno altri 8-9, il principio uno in ogni regione, anche nelle regioni dove non ci sono. Però la lista che dovrebbe essere presentata oggi al Viminale dei luoghi dove sorgeranno questi centri è un po' ostacolata, si legge sui giornali da vari no che ci sono da comuni o regioni coinvolte. Io voglio salutare il sindaco di Chieti, Francesco Ricci. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Quindi in Abruzzo, sindaco di centrosinistra, esatto. Sì. Si fa anche il nome di Vasto Chieti come località dove potrebbe sorgere questo centro. Lei che ne pensa? È un no pregiudiziale? È un sì? È un vediamo? Ne sa qualcosa? Ma io innanzitutto non ne sapevo niente, ho letto questa notizia sul Corriere della Sera di domenica, quindi insomma speriamo di essere coinvolti in modo più completo. E poi, come ho detto appunto al Corriere della Sera di lunedì, io non sono contrario dal punto di vista ideologico, nel senso che comunque ritengo che questo sia un problema nazionale e quindi dobbiamo essere tutti a disposizione, però è chiaro che oltre a parlarne ci devono darle risorse, perché queste cose mantengono in qualche modo la dignità delle persone che vengono ospitate e la sicurezza dei cittadini. Non è un no pregiudiziale, però lei dice non ne sa nulla sostanzialmente. Non ne abbiamo saputo nulla. Certo. Tra l'altro l'elenco è completo, insomma coinvolge varie regioni. Io voglio salutare anche il presidente della regione toscana, Claudio Martini. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Anche in questo caso regione governata dal centro-sinistra. Presidente, lei un centro di identificazione e espulsione sul territorio, si parla di Grosseto, si parla di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, ne sa qualcosa e che ne pensa? Guardi, da un punto di vista istituzionale io non so assolutamente nulla, sono mesi e mesi e mesi che sui giornali locali si ipotizza una volta una località, una volta un'altra, si è parlato anche di altre rispetto a quelle che sono uscite sui giornali in questi giorni. Varie volte abbiamo preso contatto sia con le prefetture, abbiamo chiesto chiarimenti a Roma, al governo, ma non c'è mai stato nessuna informazione, ma nessun coinvolgimento, nessun tipo di rapporto. È chiaro che in questo contesto diventa impossibile costruire un minimo di rapporto di, come dire, di collaborazione, di cooperazione, che pure sarebbe fondamentale su un tema come questo. Noi, ripeto, non sappiamo assolutamente nulla. I luoghi di cui si parla sembrano agli amministratori locali assolutamente inadatti e ingestibili. Io non so cos'altro dire. Però, Presidente, il sindaco di Chieti, che è con noi, Francesco Ricci, che è di centrosinistra, dice anche lui l'ha scoperto dai giornali, insomma, però non, il suo non è comunque un no pregiudiziale, nel senso su questo tema bisogna collaborare. Lei in linea di principio, voglio dire, ricevesse oggi o stamattina o tra mezz'ora una chiamata dal Viminale a dire guardi Presidente che vogliamo farlo lì, che ne pensa? Ma io intanto... In Toscana abbiamo un ruolo fondamentale dei comuni, degli enti locali come in altre regioni, quindi io non è che posso prendere una posizione a nome dei comuni. Io capisco la posizione del sindaco di Chieti, anche se non ho sentito tutto il suo intervento, sono arrivato solo adesso in linea. Io ho una posizione un po' diversa, io considero che questi centri siano del tutto inefficaci, non realizzano nessun tipo di beneficio concreto nella lotta contro la clandestinità e diciamo non sono neanche un grande esempio di tutela dei diritti e della dignità delle persone. Per cui il tema della lotta alla clandestinità è un tema che mi interessa e sono pronto a collaborare e a dichiarare e a vedere in che modo si può unire le forze dei territori a quelli dello Stato. Ma messa così, un progetto chiuso, blindato, che deve essere realizzato su un territorio, non mi vede disponibile ad una collaborazione. Cioè non è il no tipico di, in alcuni casi si parla del no, nel senso non qui, non nel mio giardino, non nella mia terra, fatelo altrove, non è un no di questo tipo? No, io devo dire su altre cose siamo sempre, lavoriamo con grande disponibilità, però mi sembra che il modello in sé non funzioni, insomma, se si propone... Un dibattito, un confronto serio su quello che si può fare per combattere la clandestinità, nessuno si tira indietro perché è davvero un grande problema del paese e riguarda anche la nostra regione, ma se ci vengono proposti modelli un po' a scatola chiusa in cui non si può discutere nulla, in cui il ruolo dei territori è meramente marginale, io non so cosa dire, lo facciano se non hanno la forza e via. Ah, che vuol dire? Cioè, nel senso che c'è la possibilità da parte degli enti, anche della regione, di opporsi nel caso? No, non lo so, io non so nemmeno. Questa è una classica competenza nazionale. Allora, delle due l'una, se si chiede la collaborazione dei territori, allora si apre un confronto serio, non si presentino cose blindate e tra l'altro di una, questa sì, di un'assoluta clandestinità. Noi non sappiamo assolutamente nulla. Quindi se si vuole un consenso dei territori lo si costruisca. Se invece si dice questa è una competenza nazionale, decidiamo noi, facciamo quello che vogliamo, auguri, io non ho nulla. Sì, mi lascia dare per un attimo ancora a Chieti dal sindaco Francesco Ricci. Lei sindaco ha detto che non ne sa, però ne fa una questione invece più ci aiutino anche economicamente. Ci fossero queste rassicurazioni, lei non la vede negativamente invece la presenza di un centro sul suo territorio o in un'area vicino al suo territorio? Ma io devo premettere che dal punto di vista generale la penso esattamente come il Presidente della Regione Toscana, perché effettivamente anch'io ritengo che questi centri poi tutto sommato non risolvano il problema, anzi questa proroga a 6 mesi insomma ci sembra una cosa molto particolare, un vorrei ma non posso. Non riusciamo nemmeno a capire cosa significa. Ripeto, io sono molto preoccupato anche della dignità di queste persone che in qualche modo stanno in questi centri, quindi è chiaro che se dobbiamo fare qualcosa e se dobbiamo coinvolgere il territorio in questi progetti, bene, perlomeno parliamone. Quindi io sono assolutamente convinto che le cose si possono fare se il coinvolgimento è serio. Io vorrei chiudere, Presidente Martini, vorrei chiudere con lei, però mi faccia fare un'altra domanda sull'altro grande tema che è in questione e che oggi è sulle prime pagine dei giornali, cioè si parla di ritorno al nucleare, siccome si dice entro il 2020 ci saranno la prima centrale, siccome si parla, si vocifera dei siti, cioè già tutti vogliono sapere dove potrebbero essere. Oggi il Corriere della Sera per esempio dice che Montalto di Castro, che è in provincia di Viterbo, ma insomma è lì proprio al confine con la regione toscana, e si dice anche la regione toscana dovrà avere il suo parere, Montalto di Castro potrebbe essere un sito ideale per ripristinare una di queste centrali. Lei che ne pensa in sede al ritorno al nucleare? Non so come votò lei al referendum, se ce lo vuole dire. Al referendum. Nucleare, perché sono di questa opinione. Contro il nucleare ha votato? Sì, ho votato contro il nucleare, anche se devo dire è un voto. Era un voto che aveva qualche margine di riflessione sì. Al suo interno. Alla fine oggi ha cambiato idea? Non si può votare astenuti, o sì o no. Sì, certo. Hanno questo. Però guardi, io anche qui mi faccia fare semplicemente una riflessione generale. Noi siamo stati tanti anni ancorati a questa posizione per il referendum che il Paese votò. Ora improvvisamente riparte tutta una corsa senza che vi sia un dibattito in nessuna parte del paese, in nessun pezzo della comunità scientifica, in nessun confronto, cioè non c'è nulla. Beh, però c'è tempo su questo, fino al 2020 voglio dire, sì, se ne parlerà immagino nei prossimi anni. Cioè non lo so, ecco, io trovo veramente singolare il modo con il quale si affrontano le questioni. In ogni caso mi dica star così in Francia per fissare un orientamento culturale sulle questioni dell'ambiente, dico Sarkozy, non dico diciamo un orientamento particolarmente progressista, e ha chiamato tutte le università, tutti ci hanno fatto mesi e mesi di confronto sugli orientamenti, sulle strategie, hanno definito dei punti di convergenza, ora si lavora, noi si fa tutto all'incontro, prima si prende la decisione e poi si sente se la gente... Mi dica in un flash, perché devo chiudere, se è favorevole in linea di principio anche a Montalto di Castro, ma comunque a una centrale nucleare sulla sua regione o al confine la turberebbe? Io personalmente sono contrario, comunque nel 2010 io finisco di fare il presidente, quindi questa è una questione che toccherà a chi verrà dopo di me. Ah, personalmente sono contrario. Personalmente è contrario. Io la ringrazio, grazie a Claudio Martini, presidente della regione toscana, così come ringrazio il sindaco di Chieti, Francesco Ricci. Oggi pare che il Viminale debba dare insomma questa lista di 10 nuovi centri, si parla uno in provincia di Verona, uno a Falconara, dove anche il sindaco di Ancona, che è di Alleanza Nazionale, ieri sentito da noi ha detto no, sono abbastanza contrario, però insomma è un tema molto delicato, cercheremo di capire se ci sarà o no un'opposizione. Ospite dell'ultima parte di 24 Mattino, oggi è un campione di calcio, ma non solo, si può dire tranquillamente, io lo posso dire, un campione anche nella vita, fa parte anche della mia squadra del cuore, ma questo conta meno. Oggi infatti non parliamo di calcio, con lui parliamo di cose ben più importanti. Il calciatore è Clarence Seedorf, che saluto, buongiorno Seedorf. Buongiorno. Allora, Clarence Seedorf, tutti lo conoscono come calciatore, ma è anche una persona che da anni si impegna nel civile. In particolare dal 2005 ha fondato l'associazione Champions for Children, che si batte attraverso lo sport nel favorire l'integrazione e l'inserimento sociale di persone in tanti paesi del mondo. Clarence, dove è iniziata e quando è iniziata questa avventura con l'associazione? L'associazione è stata praticamente una conseguenza di qualche attività mia nel mio paese, Suriname, dove ho cominciato a costruire un progetto, però nel percorso ho capito che avevo bisogno di una struttura che mi potesse aiutare a concretizzare, diciamo, tante idee che avevo per aiutare, diciamo, i bambini nel mondo. E così ho fondato la fondazione nel 2005 e siamo cominciati a sostenere dei progetti in Sud America, in Cambogia, in Brasile, in Kenya, e pian piano siamo cresciuti negli anni fino al punto di aver costruito dall'anno scorso, finito a dicembre, diciamo, il percorso con l'Università Cattolica di Milano, un progetto, un manuale, un programma educativo che abbiamo su un multisport, un campo multisportivo, un playground che si chiama Champions Playground, che sarà, diciamo, applicato in Sudafrica, in Vandenberg, come primo progetto proprio da Champions for Children costruito da noi. Esatto, il progetto che nascerà proprio, che è nato a giorni e che si concretizzerà fino all'anno prossimo, è quello di creare un playground nei sobborghi di Cape Town, insomma una delle città più importanti del Sudafrica. Ma questo vuol dire che il calcio può essere anche veicolo, attraverso magari persone come lei, attraverso i calciatori che si impegnano, veicolo, insomma, di messaggi positivi, di integrazione, di aiuto, per esempio, alle persone che ne hanno bisogno. Noi abbiamo innanzitutto non solo i calciatori, ma tutte le persone, parlando di adulti nella vita, abbiamo questo ruolo di modello e lo possiamo svolgere in vari modi. Io, per la mia visibilità, posso ottenere e occuparmi forse più persone, più bambini nel mondo, e questo è quello che cerco di fare. Cerco di trasmettere sia nella mia attività quotidiana attraverso il mio calcio, ma anche proprio nella vita, nel comportamento nella vita, di essere un esempio per chi mi guarda. Attraverso la fondazione, pensando lo sport, non solo il calcio, ma lo sport in generale, perché non tutti i bambini vogliono giocare al calcio, e così ognuno, per quanto il suo talento si permette, può praticare uno sport e attraverso questo sport essere educato di sviluppare la capacità motoria. Che cosa si fa di concreto in questi playground? Cioè, sono luoghi dove i ragazzi, i bambini, visto che ce ne sono già in tanti paesi del mondo, studiano, si aggregano e magari trovano anche percorsi di vita positivi? Assolutamente, ci saranno dei coach che gestiranno playground, queste saranno attività dopo scuola, specialmente per non stare lì sugli angoli della strada per andare a fare cose che non devono, invece vengono lì, possono giocare e durante il gioco loro impareranno di collaborare, disciplina, fidarsi degli altri, i valori che poi servono per diventare una persona civile. Senta, ma le posso chiedere, ma chi glielo fa fare? Cioè, voglio dire, a lei, persona famosa, visibile, campione appunto dello sport, ma sicuramente anche tanti soldi, perché questo impegno civile che, ripeto, le proviene da lontano e che porta avanti con tanta passione? Io me lo sento come una missione nella mia vita. Credo che mi è stato dato questo talento per massimizzarlo e utilizzarlo poi per il bene degli altri, che poi alla fine diventa la mia felicità. Questo è, in poche parole, diciamo, la risposta. Tra l'altro proprio il Sudafrica, questo progetto in Sudafrica, l'anno prossimo ci saranno i mondiali, insomma il calcio può essere davvero un veicolo di integrazione, insomma guardiamo a quello che può essere anche lo sviluppo di questo paese molto, molto contrastato, insomma con un passato difficile. Avete scelto proprio quel paese volutamente, immagino. Abbiamo scelto volutamente anche perché negli ultimi anni si è sviluppato un rapporto stretto con la fondazione di Nelson Mandela e una delle persone che più mi ha stimolato e per continuare questo percorso, perché ovviamente si trovano tante difficoltà, però ogni volta che uno guarda anche la sua vita e quelle che quell'uomo ha fatto per il mondo, direi che diciamo, l'energia ti ritorna subito e la positività ti rimane. E abbiamo scelto di fare lì il progetto anche perché speriamo che possa vivere almeno fino alla fine del mondiale, in modo tale che possa partecipare all'apertura di questo playground. Ci sono anche altri calciatori che fanno iniziative benefiche, però non siete in tantissimi, se posso permettere. C'è ancora un'immagine del calciatore che non rispecchia molto quella che lei può essere, insomma, calciatore che si impegna anche nel civile. Perché secondo lei nel calcio fatica a farsi strada questa immagine del calciatore che si mette anche al servizio, fa qualcosa per gli altri? No, intanto non è vero proprio niente di questo, perché tantissimi giocatori fanno dell'attività e non tutti sono visibili o vogliono far sapere gli altri che fanno. Io direi che ognuno deve guardare a casa sua. Io credo che ogni persona nel mondo è responsabile e può fare qualcosa per migliorare questo mondo, per aiutare uno il prossimo. Non si vuole niente, un euro qui non vuol dire niente, in Africa o in altre parti del mondo vuol dire salvare la vita di un bambino. Allora non è solo legato ai soldi, è anche legato al comportamento, è legato a essere un modello per gli altri. I comportamenti anche in televisione in Italia, per se vogliamo dire, io vedo i comportamenti in televisione che non è che sono di un gran esempio e non sono calciatori che sono lì a parlare. Allora ci sono tantissimi modi diciamo come ognuno può prendersi la responsabilità sociale verso specialmente i bambini. Sì. Va bene, io Clarence Seedorf la ringrazio moltissimo, insomma, di essere stato con noi. Come avete sentito, non abbiamo parlato di calcio, oggi parliamo di altro, anche se con un grande calciatore. E allora, tra l'altro, io ricordo il sito della Fondazione Champions for Children, c'è un sito che è www.ch4ch.com. Non è facile da dire, insomma, in radio, ma come al solito la regola è quella: scrivete una mail a noi 24mattino@radio24.it e noi vi daremo tutti gli estremi del caso per questo progetto che riguarda il Sudafrica, la fondazione in collaborazione con l'Università Cattolica. Grazie a Clarence Seedorf, devo chiudere. Tra poco Giuliano Ferrara parlerà della situazione economica, le banche, gli Stati Uniti, ma anche l'Italia ci riguarda, e noi ci ritroviamo domani mattina.